Sezione terza della Divina Commedia Il Paradiso di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto terzo. Quel sol che pria d'amor mi scaldò il petto, di bella verità m'avea scoverto, provando e riprovando il dolce aspetto. Ed io, per confessar corretto e certo me stesso, tanto quanto si convenne, levai il capo a profferer più erto. Ma visione apparve che ritenne a sé me tanto stretto per vedersi che di mia confession non mi sovvenne. Quali per vetri trasparenti e tersi, over per acque nitide e tranquille, non si profonde che i fondi sien persi, tornan de nostri visi le postille, debili sì, che perla in bianca fronte non vien men forte alle nostre pupille. Tali vid'io più facce, a parlar pronte, perch'io dentro l'error contrario corsi a quel ch'accese amor tra l'uomo e il fonte, subito, sì, com'io di lor m'accorsi, quelle, stimando specchiati sembianti, per veder di cui fosser gli occhi torsi, e nulla vidi, e ritolsi davanti diritti nel lume della dolce guida, che sorridendo ardea negli occhi santi. Non ti maravigliar perch'io sorrida, mi disse, appresso il tuo peril coto, poi sopra il vero ancor lo piede un fida. Ma te rivolve come suole a voto, vere sustanze son ciò che tu vedi, qui rilegate per manco di voto. Però parla con esse, ed odi, e credi che la verace luce che le appaga da sé non lascia lor torcerli piedi. Ed io, all'ombra che parea più vaga di ragionar, drizzami e cominciai, quasi come uom cui troppa voglia smaga. O ben creato spirito, che arai di vita eterna la dolcezza senti, che non gustata non s'intende mai. Grazioso mi fia, se mi contenti del nome tuo e della vostra sorte. Ond'ella, pronta e con occhi ridenti, la nostra carità non serra porte a giusta voglia, se non come quella che vuol simile a sé tutta sua corte. Io fui nel mondo vergine sorella, e se la mente tua ben si riguarda, non mi ti celerà l'esser più bella, ma riconoscerai ch'io son piccarda, che posta qui con questi altri beati, beata son nella spera più tarda. Li nostri affetti, che solo infiammati son nel piacer dello Spirito Santo, letizian del suo ordine formati. E questa sorte, che par giuco tanto, però n'è data perché fur negletti di nostri voti e voti in alcun canto. Ond'io a lei, né mirabili aspetti vostri risplende non so che divino, che vi trasmuta da primi concetti. Però non fui a rimembrar festino, ma or m'aiuta ciò che tu mi dici, sì che raffigurarmi più latino. Ma dimmi, voi che siete qui felici, desiderate voi più alto loco per più vedere o per più farvi amici? Con quell'altro ombre pria sorrise un poco, da indi mi rispose, tanto lieta ch'arder parea d'amor nel primo foco. Frate, la nostra volontà quieta virtù di carità che fa volerne sol quel ch'avemo ed altro non ci asseta. Si disiassimo esser più superne, foran discordi gli nostri disiri dal voler di colui che qui ne cerne, che vedrai non capere in questi giri, s'essere in caritate qui ne cesse e se la sua natura ben rimiri. Anzi, è formale ad esto beato esse tenersi dentro alla divina voglia, per cuna fansi nostre voglie stesse. Sì, che come noi siamo di soglia in soglia per questo regno, a tutto il regno piace come allo re che in suo volerne invoglia. in la sua volontade è nostra pace. Ella è quel mare al qual tutto si muove, ciò che ella cria o che natura face. Chiaro mi fu allor come ogni dove in cielo è paradiso, e sì la grazia del sommo ben d'un modo non vi piove, ma sì, come egli avvien, con cibo sazia, ed un altro rimane ancor la gola, che quel si chiere e di quel si ringrazia. Così feci io con atto e con parola, per apprender da lei qual fu la tela, onde non trasse insino al co la spola. Perfetta vita ed alto merto in cela donna più su, mi disse, alla cui norma nel vostro mondo giù si veste e vela, perché infino al morir si vegghi e dorma. Con quello sposo che ogni voto accetta, che caritate a suo piacer conforma. Dal mondo, per seguirla, giovinetta, fuggimmi, e nel suo abito mi chiusi, e promisi la via della sua setta. Uomini poi, a mal più che ben usi, fuor mi rapiron della dolce chiostra. Dio lo si sa qual poi mia vita fusi. E quest'altro splendor che ti si mostra dalla mia destra parte, e che s'accende di tutto il lume della spera nostra, ciò che io dico di me di sé intende. Sorella fu, e così le fu tolta di capo l'ombra delle sacre bende. Ma poi che pur al mondo fu rivolta, contro suo grado e contra buona usanza, non fu dal vel del cuor giammai disciolta. Questa è la luce della gran costanza, che del secondo vento di soave generò il terzo e l'ultima possanza. Così parlommi, e poi cominciò Ave Maria cantando, e cantando vanio come per acqua cupa cosa grave. La vista mia, che tanto la seguio quanto possibil fu, poi che la perse, volsesi al segno di maggior disio, e da Beatrice tutta si converse. Ma quella folgorò nel mio sguardo, sì che la prima al viso non sofferse, e ciò mi fece a dimandar più tardo. Fine del canto terzo.